Torino, a Bisese. Vabbè, siete già fratelli. La. Caldo c'hai. Lo dando. Tony, attento, Tony. Sul PMR, avanti? Avanti, c'è qualcuno in PMR? Boh, forse non funziona. Eppure funziona. C'è qualcuno che mi ascolta? Qualcuno che ascolta in PMR? Boh, va bene. La mamma è... Chi è sul PMR? Avanti? Non mi vedo mai mando fane. Yeah, mamma. Siete turisti? Eh beh, Mastro Giulio. Giulio. Giulio. Giulio. Giulio. Attento, Giulio. Giulio. Giulio. Giulio. Allora. A che ho ti picchi? Anche qua venite a rompere le palle, per carità di Dio. Anche qua venite a rompere le palle. Vai a giocare con i bambini. E questo non è un gioco. Vai a giocare da un'altra parte. Vai a giocare da un'altra parte. Queste sono frequenze abilitate ai CB, vai a giocare da un'altra parte. No, la metto uno. Vai a giocare da un'altra parte, ti ho detto. Hai capito? Vai a giocare da un'altra parte, questo non è un gioco. Dove viene a te a babuddoio che te l'ha dato in mano. Manuè. Attento Manu, attento Manuele, ci sei? Ancora non ha capito andare a giocare da un'altra parte. È una cosa urgentissima. Vai a giocare al manicomio. Non ti sentite. Non ti sentite. tempo. Scusami, non, perché non trovavo i vostri punti. Inizia pure. Inizia pure.